maggiore disponibilità di tempo che può essere così utilizzato per curarsi o per occuparsi dei bambini o dei vecchi. Capite, il miglioramento della condizione operaia è un miglioramento della vita dell'intera società. Questo accade fra il 60 e il 75 e 76. Nel corso degli anni 70 il capitale internazionale, rappresentato da organismi di ricerca, sistemi politici e scientifici molto precisi, come un organismo che si chiama Trilateral Commission, la commissione trilaterale presieduta da Henry Kissinger, che è un grande consigliere del governo americano, mettono a punto degli strumenti per controbilanciare questa crescente potenza del movimento operaio. E in una delle dichiarazioni della commissione trilaterale si afferma in maniera esplicita che nel mondo si sta verificando un eccesso di democrazia che rischia di danneggiare l'economia industriale. Ecco, così voi avete tutto il quadro della situazione, insomma, inizia un rovesciamento che poi avverrà pienamente con la vittoria delle elezioni inglesi di Margaret Thatcher nel 1979 e con la vittoria di Ronald Reagan nelle elezioni americane nel 1980. Con questo rovesciamento del pensiero politico ed economico inizia l'epoca del neoliberismo. Il terzo paese che adotterà politiche di deregulation è il Cile, dove l'11 settembre del 1973 un generale nazista di nome Augusto Pinochet uccide 30.000 persone, mette fuori legge l'intera sinistra, i sindacati, le organizzazioni democratiche del paese, costringe centinaia di migliaia di persone all'esilio e instaura una dittatura fascista che rimane al potere per due decenni e che, fra le altre cose, applica il programma neoliberista. Tanto per dire che la parola neoliberista non ci deve far pensare alla libertà, cioè questa è la propaganda. Il neoliberismo è in molti casi una politica economica che si coniuga con politiche di tipo esplicitamente autoritario, quando non violente e militare. Bene, questo comunque è il quadro generale di una trasformazione che fa perno intorno al concetto di deregulation. Deregulation, sregolamento, liberazione della dinamica economica da ogni vincolo, che sia legale, che sia sindacale, che sia sociale, che sia culturale, eccetera, eccetera. Contemporaneamente, e qui io adesso passo ad un ultimo punto relativo alle condizioni di trasformazione planetaria che accompagnano, ripeto, la finanziarizzazione. Nello stesso tempo si sta verificando un altro mega mutamento, proprio di quelli maggiori, che riguarda il sistema produttivo mondiale, e questo mutamento si accompagna naturalmente alla digitalizzazione e alla creazione dei sistemi di rete. È quel mutamento, quella trasformazione che io definirei come cognitivizzazione del processo produttivo, che vuol dire che il processo produttivo, che fino agli anni 60-70 ha avuto un carattere prevalentemente fisico-industriale, cioè è stato essenzialmente centrato intorno alla trasformazione di materiali fisici da parte del lavoro muscolare degli esseri umani, degli operai industriali, il lavoro tende a trasformarsi sempre più in lavoro di elaborazione di informazioni. Lo accennavo già ieri, con la parola informazioni non dobbiamo intendere semplicemente una notizia a proposito di qualcosa, ma dobbiamo intendere il carattere diciamo, algoritmico di un processo. Informazione è una formula linguistica che contiene al proprio interno una potenzialità di implementazione reale, di manifestazione nel mondo reale. L'algoritmo è il modello più chiaro di tutto questo, l'algoritmo chiaro si fa per dire. L'algoritmo è una successione di segni matematici che attivano dei processi di tipo tecnologico o comunque è la virtualità di un processo, la dimensione virtuale di un processo che poi si trasferisce nella realtà. Un programma informatico che governi un sistema di produzione tecnico è governato da un algoritmo. Il programma informatico mette in moto un computer a sua volta mette in moto una macchina e quella macchina a sua volta agisce sulla realtà producendo segni o oggetti fisici, oggetti materiali. Dunque, con la introduzione delle tecnologie informatiche, introduzione che comincia già negli anni 70, con dapprima si chiamavano macchine a controllo numerico, poi si chiamano isole di montaggio e poi si chiamano sistemi flessibili di manifattura e poco alla volta vediamo comparire i computer nei processi produttivi, poco alla volta la catena di montaggio che era costituita da una serie di operai che lavoravano materialmente, fisicamente, gli oggetti in produzione, questi vengono progressivamente sostituiti da sistemi collegati fra loro per via informatica, all'interno dei quali rimane una quantità sempre più esigua di lavoro materiale, operaio. Ma la grande parte del lavoro viene trasferito dalla manipolazione materiale verso i livelli che possiamo chiamare cognitivi, dalla programmazione, la progettazione, al collaudo, al controllo, a tutte quelle funzioni che poi si articolano in maniera sempre più complessa nel corso dei decenni successivi, tutte quelle funzioni che comportano una conoscenza elevata dei processi, quindi un alto livello di scolarizzazione, e che comportano un impiego di energie nervose e intellettuali piuttosto che di energie muscolari e fisiche. Naturalmente non dobbiamo pensare che il lavoro operaio sia un lavoro senza intelligenza, perché non c'è lavoro umano che non comporti l'uso di intelligenza. Anche l'uomo di Neanderthal che si fabbrica una forchetta sta esercitando la sua intelligenza, ma dunque l'operaio alla catena di montaggio è un essere pensante, però le testimonianze stesse degli operai delle catene di montaggio dimostrano che quando lavori alla catena meglio che cerchi di non pensare a quello che stai facendo e che automatizzi i tuoi gesti, mentre da un certo momento in poi l'impiego delle energie intellettuali diventa sempre più importante nella attività produttiva medesima in forme diverse, perché ci sono attività intellettuali che implicano un intervento cosciente creativo, il lavoro del progettista. Ci sono attività che comportano un dispendio di energia intellettuale nervosa che però deve essere il più possibile ripetitiva. Poniamo il mestiere del collaudatore o il mestiere di chi risponde in un call center e così via. Ma in ogni caso la competenza che viene richiesta dal capitale al lavoro è una competenza di tipo mentale, cognitivo, non fisico e muscolare. Ora, quando si verifica questo passaggio, e questo passaggio diventa maggioritario nel corso degli anni 90, nel senso che nei paesi occidentali negli anni 90 abbiamo proprio uno shift nella distribuzione delle forze lavoro, per cui la forza lavoro agricola si riduce al 4-5%, La forza lavoro industriale, che era superiore al 50% fino agli anni 70, scende intorno al 20-25%. In Italia nel 68 abbiamo 13 milioni di operai industriali, nell'anno 2000 abbiamo 6 milioni e 800 mila operai industriali, praticamente dimezzata la cifra degli operai industriali. Contemporaneamente cresce quella parte di lavoro che può essere definito lavoro terziario, lavoro dei servizi, in mille maniere, ma che io preferisco unificare sotto la definizione di lavoro cognitivo, nel senso che la competenza prevalente che viene richiesta a questo tipo di lavoro è un impiego delle energie cognitive. Ora, in questo passaggio, che a dare un'indicazione bibliografica viene anticipato da diversi autori, ad esempio da un sociologo americano che si chiama Daniel Bell, che è un personaggio importante della sociologia americana. Daniel Bell nel 1973 ha pubblicato un libro che si chiama Towards a Post-Industrial Society, tradotto in italiano col titolo La società post-industriale. L'espressione post-industriale entra così nel dibattito, nella discussione sociologica. Industria sarebbe un sistema di produzione centrato sul lavoro fisico di trasformazione materiale, post-industriale sarebbe invece quella società, quella produzione nella quale le energie fisiche sono quelle impegnate in modo prevalente. Un filosofo e sociologo francese che si chiama François Lyotard pubblica nel 1979 un libro intitolato non mi ricordo se introduzione alla società postmoderna o la società postmoderna, la condizione postmoderna, grazie, che è tradotto in italiano con forse la condizione postmoderna, non mi ricordo, il titolo originale è La condizione postmoderna. E postmoderna è una parola molto usato in quegli anni, però devo dire anche piuttosto equivoca, come sapete, perché il suo uso è sempre scarsamente definito, non si capisce. La parola postmoderno viene dal linguaggio architettonico, insomma dall'architettura da prima, e in campo architettonico il postmoderno allude ad un abbandono degli stilemi razionalisti dell'architettura moderna e all'adozione di forme di meticciaggio, di sovrapposizione, di pastiche, di contaminazione fra diversi stili. Questa caratteristica permane in tutto il discorso sul postmoderno che viene sviluppato successivamente. Forse qualcuno di voi conosce un libro di Frederick Jameson che si intitola proprio Il postmoderno, è diciamo il librettino di riferimento. Jameson è un marxista americano che si occupa fra l'altro di estetica e postmoderno, un libro che è tradotto e edito in italiano da Garzanti, postmoderno diventa un po' il punto di riferimento, ma insomma con la parola postmoderno qua Lyotard dice una cosa che è simile a quella che Daniel Bell chiama post-industriale, e inizia il libro dicendo: quando quando entrano in scena le tecnologie dell'informazione, il sapere cambia di statuto. Il sapere, le forme stesse del sapere cambiano di statuto, cambiano di struttura. E poco alla volta ci si rende conto, in ambito sociologico, in ambito marxista, nell'ambito del pensiero marxista, particolarmente del pensiero marxista italiano, particolarmente autori come Toni Negri, ancora una volta, e altri, ci si rende conto del fatto che sta accadendo qualcosa di molto profondo alla composizione produttiva del lavoro. E questo cambiamento che riguarda il lavoro, per cui il lavoro è sempre di meno lavoro fisico, è sempre di più lavoro mentale, cognitivo, nervoso, affettivo, l'implicazione anche dell'emozionalità, della creatività, dell'affettività, l'assunzione all'interno del processo produttivo del lavoro di cura, del lavoro sessuale, del lavoro affettivo, del lavoro educativo, che diventano sempre di più indispensabili in una società che sfrutta soprattutto le energie nervose. In questo mutamento sta accadendo qualcosa di molto profondo che mette in causa, in crisi, uno dei fondamenti, dei pilastri del pensiero marxista, la definizione del valore. Cos'è la definizione del valore? Passo indietro, ne avevamo già parlato, ma qui abbiamo parlato di tutto praticamente, però un po' troppo rapidamente. Parlo di troppe cose, lo so. Cos'è la teoria del valore di Marx? Marx si chiede: perché quel telefono vale 300 euro e quell'altro ne vale 120? Che differenza c'è fra l'uno e l'altro? Uno è più bello, l'altro è più brutto. Non funziona così. Non possiamo definire il prezzo, si definisce in base ad una dinamica, la dinamica del rapporto fra domanda e offerta, che però ha un suo fondamento. Il fondamento del prezzo è il valore. Ma il valore di un bene come si stabilisce? È forse legato alla sua utilità? Beh, in quel caso l'acqua dovrebbe costare molto di più di quanto costano gli occhiali, poniamo, no? Dunque non è l'utilità che definisce il valore di una merce. Insomma, ragionando a lungo su questo punto, Marx giunge ad una conclusione: c'è una sola cosa che ci permetta di stabilire il valore della merce, ed è il tempo di valore di lavoro necessario per la produzione di quel bene. È probabilmente, diciamo, uno dei punti più importanti del pensiero marxista, che va sotto il nome di teoria del valore. E Marx dice anche: guardate che il lavoro non ha nessun valore, perché esso è la fonte di ogni valore. Per cui è sciocco chi dice: voglio essere pagato giustamente. Nessuno è pagato giustamente. Chi è pagato per lavorare è sempre pagato ingiustamente. Il lavoro vale sempre di più di quello del salario che gli viene dato. Smettila di pensare che devi essere pagato giustamente e impara che sarai pagato quanto la forza collettiva, sociale del lavoro sarà in grado di imporre. Dunque Marx dice: il lavoro non ha valore perché è la fonte del valore. E come facciamo a stabilire il valore? Sulla base del tempo socialmente necessario per produrlo, socialmente necessario, mediamente necessario. E dice: ma lei è pigra, per produrre questa cosa qui lei ci mette 2 ore, mentre lei, che è abbastanza rapida, ci mette 40 minuti. Allora chi dei due ha ragione? Questo vale 40 minuti o 2 ore? E Marx risponde: c'è una media, una necessità di tempo media sociale che si stabilisce sulla base del carattere delle tecnologie, della capacità umana, e il capitale è in grado, tramite un sistema di controllo sul lavoro, di importi, di andare nella media. Se sei troppo pigro ti manda a casa e peggio per te. Quindi si può stabilire un tempo necessario medio per la produzione di un bene, e quel tempo necessario medio è la fonte del valore. Ma questo è un discorso che Marx faceva quando il lavoro era lavoro fisico, muscolare, materiale, quando il lavoro poteva essere come fosse un solido, quantificato, diviso in tanti pezzetti e reso relativamente equivalente nella media. Ma quando il lavoro diventa il lavoro sociale complessivamente, prevalentemente, diventa lavoro mentale, lavoro creativo, lavoro emotivo, lavoro affettivo, lavoro progettuale, come facciamo a Una calcolarlo? lezione. Prego. Buona giornata. Arrivederci. Lunedì a mezzogiorno, se avete voglia, ci vediamo alla Torre Galfa, vi manderò dei bigliettini. Ciao. E, ecco, a quel punto potremmo dire che lo standard, il metro di riferimento, la misura che ha sorretto l'intero edificio della società industriale moderna e borghese, viene meno. Che, come dice Baudrillard nelle prime pagine del suo libro Lo scambio simbolico e la morte, tutto il sistema precipita nella indeterminazione. Ed entriamo, cito ancora Baudrillard, nel regime dei valori fluttuanti. Tutto sistema precipita nell'indeterminazione. Frase densa di echi. Indeterminazione è una parola importante per il pensiero del XX secolo. Non so se qualcuno di voi conosce Werner Heisenberg, un fisico che negli anni 30 stabilisce che quando vogliamo calcolare la velocità di una particella subatomica, dobbiamo rassegnarci a non poterne calcolare il momento, cioè la posizione esatta. E se vogliamo calcolarne il momento, non possiamo calcolarne la velocità esatta, perché il tempo necessario per il calcolo soggettivo rende la verifica fisica indeterminata. Insomma, sulla base di un esperimento scientifico che nessuno di noi è in grado di capire, Heisenberg afferma un principio fondamentale nella fisica moderna, cioè che noi possiamo sì stabilire delle verità scientifiche, ma queste verità scientifiche non sono mai vere in maniera assoluta, vanno sempre considerate. Qui naturalmente il riferimento va al pensiero di Einstein, a tutti. La rivoluzione che la relatività ha comportato e la meccanica quantistica ha comportato nella scienza e nell'epistemologia del XX secolo, insomma, la indeterminazione diventa un principio fondamentale nel pensiero scientifico stesso, che è certo pensiero dell'esattezza. Ma deve sempre tenere in conto un fattore di scarto che è determinato, disse sempre Heisenberg, dall'intervento dell'osservatore all'interno del sistema osservato. Quando siamo in un sistema osservato, il fatto che io lo stia osservando lo cambia, perché io vivo nel tempo, per esempio, e quindi il tempo costituisce un elemento di differenziazione. Insomma, l'indeterminazione fa la sua comparsa nel pensiero del XX secolo. Non dimentichiamoci che l'arte, la letteratura del XX secolo registrano in modo costante questo predominio del soggettivo, dell'indeterminato. Potrei citare James Joyce nella letteratura, potrei citare dall'impressionismo in poi tutto quello che accade nelle arti visive. Sempre di più le arti visive divengono consapevoli del fatto che l'artista non sta riproducendo la realtà, sta intervenendo nella realtà e fornendo la sua impressione, la sua visione. Hans Sedlmayr, un critico d'arte degli anni 30, scrive un libro che si chiama La perdita del centro, in cui per l'appunto registra come fenomeno fondamentale dell'arte del XX secolo la perdita del centro, la perdita della certezza, della determinazione. Bene, questo, che questo progressivo perdersi della certezza deterministica che ha caratterizzato il XX secolo nell'arte, nella sensibilità e nella filosofia e nell'epistemologia, dagli anni 70-80 in poi diventa un fattore di trasformazione profondo dello stesso sistema economico. Ecco che quando la attività produttiva diventa essenzialmente attività mentale, attività vorrei dire con un termine di Zygmunt Bauman, che è un sociologo contemporaneo che ha scritto un libro intitolato La società liquida, diventa sempre di più liquida, non solida come il lavoro fisico, materiale, ma diciamo difficilmente contenibile all'interno di contenitori fissi. Quando l'attività produttiva diventa attività mentale, la misura viene meno. La misura viene meno. Fine della misura. Cos'è la misura? I latini usano l'espressione ratio per intendere la misura. La misura è quella convenzione umana che rende possibile comparare una cosa con un'altra, no? Un metro, cosa ti serve sapere cos'è un metro? Ti serve per comparare la tela necessaria per farti un pantalone con un pezzo di pietra e così via, e cosa ti serve il chilo e cosa ti serve il denaro. Cos'è il denaro? Abbiamo detto prima equivalente generale, e dunque è misura del valore di tutte le cose. Ma quando il valore non può più essere stabilito in maniera oggettiva, perché la fonte del valore non è più il lavoro fisico, ma il lavoro mentale, come facciamo a stabilire il valore delle cose? Qualcuno risponderebbe: quando non c'è misura, la determinazione del valore è compiuta dalla violenza, dalla forza. Quando non c'è misura, il più forte impone la sua misura. Ed effettivamente uno dei principi della società neoliberista post-industriale è il principio della competizione, considerato come il valore sociale, il valore morale, vorrei quasi dire, anche se è un valore immorale, ma insomma la competizione diventa il criterio ultimo dell'efficienza sociale. Se vuoi contare qualcosa nell'economia libera, devi essere competitivo. Per essere competitivo, ogni paese deve realizzare condizioni di minimo pagamento del lavoro, di massimo sfruttamento del lavoro. Ecco che il principio di competizione finisce per imporsi come principio del più forte e finisce per dominare la scena economica e poi ovviamente la scena politica e anche, diciamo, pure la scena della vita quotidiana del nostro tempo. Ecco che in questa maniera noi cominciamo anche a capire cosa ci sta dietro quella destandardizzazione del denaro di cui abbiamo parlato fino ad ora. Destandardizzazione, o meglio dereferenzializzazione, cioè il denaro non è più indicatore di un referente, non è più un linguaggio rappresentativo, un linguaggio descrittivo, è un linguaggio evocativo, evoca la sua realtà, non la indica. Ma al tempo stesso, oltre a perdere il referente, e forse ancora prima che perdere il referente, il denaro ha perduto la sua misura, perché la misura stava nella determinabilità del valore della merce. Quando la merce è prodotta di lavoro liquido, di lavoro aleatorio, di lavoro non quantificabile, in maniera solida, E da quel momento in poi la determinazione del valore viene meno. Il valore non è più obiettivamente definibile sulla base del tempo di lavoro mediamente necessario per la sua produzione, ma come dice Baudrillard, il sistema precipita nell'indeterminazione ed entriamo nel regime dei valori fluttuanti. Valori fluttuanti sono valori che non hanno uno standard, una misura, ma fluttuano per l'appunto. E a provocare la loro fluttuazione è il rapporto di forza. Ecco, questa descrizione che io adesso sto facendo, diciamo, in maniera approssimativa, quanto volete, però, e soprattutto la sto facendo 30 anni dopo, 35 anni dopo la pubblicazione del libro di Baudrillard, quindi io ne so molto di più. Baudrillard si esprime in maniera molto astratta, sta parlando di processi che non può ancora vedere, ma che con la sua intelligenza, la sua immaginazione sociologica riesce ad anticipare. Oggi noi vediamo questo processo in qualche modo tutto dispiegato. E uno dei risultati, degli effetti di questo processo è proprio quella che chiamiamo finanziarizzazione. Perché la finanziarizzazione, come abbiamo detto, è quel processo, quella trasformazione per cui gli indicatori finanziari, uso la parola indicatori sapendo che è una parola che è in questione, gli indicatori finanziari non indicano più niente. Per dirne uno, tanto per entrare nel vivo di una questione che è di grande attualità. Pensate alle agenzie di rating. Voi sapete cos'è Standard & Poor's o cos'è Moody's, queste grandi agenzie internazionali che hanno come compito istituzionale, compito per il quale sono altamente pagate, quello di stabilire, per gli operatori finanziari, stabilire il valore di un agente economico, che sia un'assicurazione, che sia una banca, che sia un'azienda, che sia uno Stato nazionale anche, no? E questi attribuiscono agli agenti economici in questione delle votazioni che vanno da AAA più più più ad AAA più più AAA più AAA A meno A meno B B B B B B B C C c'è tutta una gradazione per cui si va dal assolutamente garantito, non si preoccupe, fino all'assolutamente disastroso, junk. Ora, varrebbe la pena di osservare il fatto che Cosa siamo BPU? come dici? Cosa siamo BPU? Noi adesso siamo B qualcosa, credo BBB più, cioè siamo messi male, cioè quando non hai più la A, non, insomma, stai andando giù. E il problema è che anche gli Stati Uniti d'America sono stati downgraded l'anno scorso e hanno avuto AA, quindi gli è stato tolto un elemento di certezza, ma ormai le tre A le mantengono in pochissimi, credo la Germania, come, forse gli Emirati Arabi Uniti, non lo so con certezza, ma lo suppongo, sì. Ora, varrebbe la pena di ricordare che fino al settembre del 2008 le agenzie di rating non avevano anticipato la crisi che stava arrivando perché non l'avevano capita o forse, più probabilmente direi, perché non la dovevano dire, non la dovevano capire. Ma quello che mi interessa è questo: cos'è esattamente un'agenzia di rating? In teoria è un indicatore. Cioè deve indicare il fatto che questa economia è solida, questa non lo è. Ma nel momento in cui io dico questa economia è solida, qual è il risultato? Che tutti compreranno le mie azioni. Se io dico l'economia greca non la è, cosa Lo succederà? diceva Che che tutti venderanno le obbligazioni del tesoro greco. Quello che voglio dire è che l'agenzia di rating finge di essere, è definita formalmente come un indicatore, in realtà è un agente pragmatico. Beh, certamente, determina i processi economici, fa crollare un'economia, ne rafforza un'altra. Ora, non mi interessa dirlo per ragioni scandalistiche, poi c'è molto di scandalistico nel modo in cui le agenzie di rating hanno operato negli ultimi anni, ma quello che mi interessa è un aspetto teorico, che è il rapporto fra indicazione, indessicalità, carattere descrittivo dell'enunciato e carattere pragmatico. Cosa vuole dire descrittivo? Cos'è un enunciato descrittivo? Se io dico quella tela è bianca, sto descrivendo una cosa, lo sto descrivendo in modo approssimativo, perché quella tela in realtà è grigiolina con macchie marroni, però è una descrizione approssimata. Ecco, questa è una descrizione. Poi ci sono descrizioni di tipo diverso, ad esempio potrei, se io dico io sono, oppure io sono qui, sto facendo una descrizione di tipo un po' particolare, perché i linguisti la definiscono indessicalizzazione, nel senso che io non solo sto affermando io sono qui, ma sto affermando una cosa che è vera solo nel momento in cui la dico, perché se io mi metto là non è più vero che io sono qui, ovvero è ancora vero ma in un modo diverso da come l'avevo detto. Quindi ci sono delle descrizioni puramente oggettive, quel telo è bianco, delle descrizioni che implicano l'enunciante all'interno della enunciazione, ma sempre siamo nel campo della descrizione. Se io dico la seduta è tolta e me ne vado, non sto descrivendo niente, sto costruendo una situazione, perché io ho l'autorità per decidere. Se lo dice lei non conta niente, perché lei non ha la fascia tricolore, ma se tu hai la fascia tricolore e dici carica, in quel momento succede un patatrac, 15 persone vengono ferite, molte arrestate. Se non hai la fascia tricolore, ma magari la barba e dei segni che fanno di te qualcosa di diverso da questore, e dici carica, nessuno ti fuma, non succede assolutamente niente. Ecco, dunque sto parlando di una forma di enunciazione che non è descrittiva bensì pragmatica, e l'enunciazione pragmatica comporta uno, una capacità, una competenza pragmatica dell'enunciante. Non ogni enunciante è in grado di compiere un gesto linguistico pragmaticamente efficace, e comporta un mutamento della situazione esistente sulla base dell'azione dell'enunciazione medesima. Questo è la pragmatica, la sfera della pragmatica è la sfera in cui linguaggio e azione si intrecciano, mentre la sfera della descrizione, la sfera puramente denotativa, è quella in cui il linguaggio si limita a dire come la realtà è, indipendentemente dall'agire del linguaggio medesimo. Però attenzione, ci sono delle enunciazioni mascherate che fingono di essere descrittive, ma in realtà sono assolutamente pragmatiche. Se io, per esempio, in un ascensore mi metto a gridare qui sta per accadere una catastrofe, è molto probabile che qualcuno si suicidi, o che a uno gli venga una crisi di nervi, o che se io entro in una stanza urlando una tragedia si sta per verificare, qualcuno si butta dalla finestra, la mia profezia si è realizzata per il fatto stesso che io la ho enunciata. Ora, se io dico questa sera l'economia spagnola sta per crollare, non gliene frega niente a nessuno, non succede niente, ma se io ho un'agenzia di rating e dico l'economia spagnola sta per crollare, l'economia spagnola crolla davvero, perché immediatamente tutti coloro che intervengono nell'economia internazionale ritirano i loro investimenti dalle aziende e dalle banche spagnole, e domattina la Spagna si ritrova, come già si sta ritrovando, prossima al collasso. Cos'è successo? Che una descrizione, una indicazione, potremmo forse dire perfino una indessicalizzazione, qual è il grade, il voto dato da un'agenzia di rating, si trasforma automaticamente in un enunciato di tipo pragmatico. Si può usare l'espressione self-fulfilling prophecy, una profezia che si autorealizza. Nel momento stesso in cui facciamo la profezia stiamo creando le condizioni perché la profezia diventi vera. Con questo io credo di avere un po'... certo non in maniera esauriente, però credo di avere fornito alcuni elementi di interpretazione sia della vicenda storica che porta al processo di finanziarizzazione. Ricapitoliamo: tecnologie digitali e creazione dei sistemi di rete. 2. Processo di deregulation e quindi progressiva smantellamento delle legislazioni sociali, economiche, ambientali che tenevano lo sviluppo economico, la dinamica economica all'interno di un modello relativamente stabile. Terzo punto decisivo, anche se diciamo particolarmente complesso, il venir meno della misura nella determinazione del valore delle merci e quindi poi nella determinazione delle relazioni fra gli agenti economici di ogni genere, per cui non c'è più la possibilità di stabilire in maniera oggettiva il valore di una merce. Il valore di una merce a quel punto si stabilirà sulla base di un aleatorietà dei valori fluttuanti, come dice Baudrillard, di un gioco di fluttuazioni nel quale ad agire sono soprattutto le forze, non le misure, non le regole. Ora, questo ultimo punto gioca questo venir meno della misura, diciamo così, gioca un ruolo particolarmente forte, non soltanto a livello economico, bensì, diciamo, vorrei dire a livello etico, nello spirito del nostro tempo. È come se noi tutti ci rendessimo conto che non c'è più misura. Non c'è più una regola che funzioni. Questo lo possiamo dire in maniera moralistica. I bei tempi andati in cui quello che diceva la nonna valeva per tutti. Possiamo dirlo in maniera rabbiosa, un po' nostalgica, ecco, finendo poi spesso per adottare un atteggiamento di tipo reazionario, nostalgia dei bei tempi in cui c'era la legge, o dei bei tempi in cui ci si alzava con il sole, si andava a letto con le galline. E invece io credo che noi dobbiamo essere capaci di renderci conto del fatto che il venir meno della misura non è un effetto della cattiveria umana o della sregolatezza o della malvagità dei politici corrotti, ma è un dato iscritto nella storia del capitale. E la stessa corruzione dei politici. Io trovo sempre un po' imbarazzante la protesta contro la corruzione. La corruzione è un dato evidente, cioè i in ogni paese del mondo, o quasi, non so dove di più e dove di meno naturalmente, però negli ultimi decenni gli episodi di corruzione sono a tal punto dilagati da essere diventati la norma della vita politica. Ma ci sono quelli, non so, i Grillo, i Di Pietro, che si agitano moltissimo dicendo che bisogna restaurare un sistema morale. Cos'è il sistema morale? È un sistema nel quale i politici si comportano bene. Cioè, cosa debbono fare per comportarsi? Beh, non rubano, non vanno in vacanza sullo yacht di Dacò e così via. Sì, tutto giusto, ma è quello il punto. Il punto è l'immoralità dei politici. In realtà, forse il gioco va rovesciato, l'immoralità dei politici diventa possibile e largamente possibile nel momento in cui non esiste più, per ragioni strutturali profonde, nessuna determinabilità del valore delle merci. Allora a quel punto è la violenza che determina, la menzogna che determina il valore della legge, la menzogna. E pensate che in un sistema in cui la forza produttiva fondamentale è una forza linguistica, i media, l'informazione, l'informatica, la simulazione, quella è la forza produttiva, e la menzogna è nell'ordine stesso delle cose. In fondo l'intero sistema che Baudrillard definisce il sistema della simulazione, l'espressione simulazione entra nel lessico di Baudrillard all'inizio degli anni 80 proprio per definire il sistema mediatico. Quando i media diventano un ciclo produttivo dominante nell'economia mondiale, a quel punto la simulazione diventa altrettanto o più importante che la realtà. Cos'è la realtà? La realtà è sempre di più il prodotto di flussi di simulazione elettronica, di simulazione mediatica, di simulazione immaginaria. Possiamo noi in questa situazione rivendicare i bei tempi andati in cui la realtà era reale e la simulazione menzogna? La menzogna ha preso il campo nella sua interezza e dunque dove potremo stabilire un punto? Ecco, qua si apre una questione gigantesca, che è la questione dell'etica nell'epoca della simulazione. Dove si fonda un principio morale? E anche qual è il punto di esplosione, di caduta di un sistema che si fonda su un gioco costante di simulazione, in cui non è più data una misura, uno standard, un principio di verità, cioè un principio di referenzialità. Non c'è più referente. Non è che lo abbiamo tradito, dimenticato, che siamo corrotti e facciamo finta di non vederlo. Non c'è. E dunque, come dice Dostoevsky, se non c'è Dio, allora tutto è permesso, anche il crimine. E in fondo, in qualche modo, nell'economia il principio del valore era Dio. Era il cardine che permetteva di valutare. È venuto a meno la possibilità di valutare in base al tempo di lavoro, tutto è permesso. Ecco, in un mondo in cui tutto è permesso, i più forti vincono. E come abbiamo visto il risultato è disastroso. Quindi ora è il momento di capire, e poi anche forse di farci venire in mente delle idee di fuoriuscita. Io non credo che la fuoriuscita consista nel ritornare al mondo della nonna, cioè ritornare al referente. Non c'è, quello non c'è. Ecco, ma se non c'è un referente, cosa può fondare un'azione etica, un'azione solidale? E cosa può rendere, non voglio dire giusto, che è una parola moralista, ma cosa può rendere insomma accettabile un rapporto fra gli esseri umani che sia per tutti utile, per tutti produttivo, sia pure in una condizione che è una condizione di aleatorietà. Ecco, dentro tutto questo quadro di discorso bisognerebbe anche aprire una piccola parentesi, lo faremo, per la questione della precarietà, della precarizzazione. Lo faremo la prossima volta, perché naturalmente il carattere precario del lavoro è uno degli aspetti di questa perdita della misura. Ecco, quando il lavoro era regolabile, standardizzabile, controllabile in maniera solida, si poteva stabilire, diciamo così, un rapporto fisso fra capitale e lavoro. Nel momento in cui il lavoro invece ha perduto i suoi limiti di determinabilità materiale, è diventato sempre di più un lavoro proliferante, presente in ogni attimo della nostra vita, della nostra immaginazione, a quel punto il capitale ha potuto ritagliare il lavoro in una maniera differente, non più il contratto a tempo indeterminato, il lavoro fisso, l'identità, ma sempre di più la modellazione, la combinazione di una figura di lavoratore liquida che dura per il tempo che gli serve e poi si dissolve, si ricompone da un'altra parte, ed ecco che il tempo di lavoro è stato impacchettato secondo modalità non più regolate, ma secondo modalità precarie, come sappiamo. E cosa si fa nelle condizioni della precarietà? Si rivendica il ritorno al tempo indeterminato, al buon lavoro fisso per tutta la vita, che ci rendeva così felici, 40 anni sempre nello stesso posto, con le stesse facce, sempre più tristi. È così che vogliamo, è questo che vogliamo? O forse dobbiamo inventarci una modalità umana della dimensione liquida, eccetera, eccetera. Sono tutte questioni che sono di grande attualità, così di attualità che in realtà ci facciamo delle domande a cui non siamo in grado di dare una risposta. Prego. Mi sta chiedendo, all'interno del ragionamento che abbiamo fatto sul fatto che sono dei forti che riescono a imporre il loro immaginario, quindi attraverso il controllo dell'immaginazione dei più, così. Secondo lei, se c'è un ruolo o comunque delle prospettive si aprono rispetto a tutto il fenomeno di Wikileaks, la possibilità che ci sia almeno in potenzialità una trasparenza, la chiamo totale, ma perché ci possiamo capire, e quindi anche magari i mezzi con cui l'immaginario viene gestito, tutto questo sistema venga un po', come dire, depotenziato per quest'idea che ogni cosa che succede all'interno di questa macchina di controllo venga resa pubblica. Se questa cosa ha un ruolo, ha delle possibilità. Guarda, a mio parere, per quel poco che ne so, Wikileaks è... Prego. Ciao. In generale il fenomeno Anonymous mi sembra che sia una delle pochissime forme di azione politica, ma anche culturale, che siano riuscite ad adeguarsi a questa realtà, cioè che hanno interpretato il carattere non più determinabile della verità. Wikileaks non dice la verità, Wikileaks descrive il mondo in un'altra maniera. Anzi, molte delle cose che le rivelazioni di Wikileaks, i militari americani uccidono i civili, vabbè, lo sapevamo già, i politici mentono, lo sapevamo già, eccetera. Ma perché è importantissimo il messaggio Wikileaks? Perché ci ha detto possiamo ricomporre la realtà da un punto di vista diverso da quello che è il punto di vista del potere. E Anonymous, il principio Anonymous, perché è importante? Perché ti dice che possiamo togliere la maschera del potere e metterci un'altra maschera, che è la maschera del lavoro, della maggioranza della società, o una maschera completamente anonima che però ti racconta un'altra storia. Tra l'altro Wikileaks contiene una lezione sulla solidarietà, perché se si è riusciti a mettere in moto una dinamica di quel genere, vuole dire che operatori dell'informatica, dell'informazione, della politica, del giornalismo, di questo e quello, hanno compiuto azioni peraltro molto pericolose in maniera collettiva, complice e solidale. Quindi è un principio d'azione totalmente innovativo e soprattutto adeguato al... In questo senso forse è anche significativo che, cioè, questa realtà così collettiva che ha tenuto su questa azione, quindi tante persone che hanno preso tanti rischi, mentre invece da parte mediatica c'è stata questa strategia per motivi complessi, alcuni forse ovvi, per cui si parla di WikiLeaks come l'operazione così di Assange, cioè di una persona che si scaglia contro... come di un cattivo, quando invece se si parlasse dello statuto così di collettivo si farebbe veramente anche una pubblicità di tutt'altro tipo rispetto al sì, fenomeno. Io ho sentito dire, non lo so se me lo confermi o se qualcuno ha conferma, che negli Stati Uniti è vietata la maschera Anonymous, che se ti prendono sei passibile di arresto. Effettivamente, perché la maschera Anonymous ha una potenza comunicativa straordinaria, perché vuole proprio dire questo: voi individuate Assange, benissimo, in realtà la verità è la maschera, e il gioco dell'anonimizzarsi è da una parte una denuncia dell'anonimato a cui ti costringe il capitalismo, ma dall'altra parte una rivendicazione della potenza liberatoria che l'anonimato può avere quando lo eserciti consapevolmente, mantenendo la tua identità umana dietro la maschera. No, è certamente uno dei punti più forti della cultura di movimento in questo ultimo periodo. Va bene, vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo lunedì a mezzogiorno. Io vi manderò un po' di... insomma, ve lo ricordo. E chi non c'è lunedì, non mi ricordo più, credo che forse ci rivediamo il giorno successivo, ma adesso vi rimando, ciao, vi mando delle informazioni sui prossimi appuntamenti. Temo che sei arrivato tardi, ma tu ricevi i miei messaggi? Sì.